di ancora il cappuccino, di ancora, di ancora. Ancora il cappuccino, ancora! E di ancora il cappuccino, di ancora, di ancora! Café, cappuccino, vamos a correr. Por eso,